La web radio che stai ascoltando appartiene a Circuito Radio NetWeb, il primo network di musica copyleft. Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento. Ennesima puntatona del Mangia Show. Benvenuti a tutti e bentrovati da parte di Andrea, oppure da parte del Mangia. La radio che ci ospita vi sta proponendo questa trasmissione molto molto interessante, che vi permette di ascoltare certamente musica molto molto diciamo così variegata, che si distingue molto dal sound proposto dai principali network italiani in FM. La musica programmata in questa trasmissione è solo ed esclusivamente musica Creative Commons. Musica Creative Commons che vi consente, tra le altre cose, il download free dei brani, la diffusione, la distribuzione tramite onde radio, ma anche, insomma, vi potete masterizzare un bel CD e poi ascoltarvelo in macchina. Cosa che, insomma, la musica attuale protetta dai diritti d'autore non penso vi consenta. Quindi però bisognerebbe fare una crociata con tutte le persone che posseggono un CD masterizzato, però non si potrebbe. Invece con la musica Creative Commons, il sound programmato in questa trasmissione, voi potete fare, insomma, quello che volete. Forse un po' generico dire quello che volete, insomma quello che gli artisti hanno scelto che voi possiate fare con le opere degli stessi. Discorso un po' contorto, comunque bentrovati a tutti, benvenuti. Io sono il Mangia, vi ricordo tutti i nostri contatti prima di iniziare la trasmissione. Potete visitare il mio blog www.andreamangiarotti.com, lì trovate le informazioni del caso per entrare in connessione con il sottoscritto e entrare in connessione con questa trasmissione che, vi ricordo ancora una volta, si chiama Mangia Show. Con la musica Creative Commons anche tante notizie che vi leggeremo dal web, notizie più o meno serie o anche notizie frivole, per accompagnarvi nel vostro viaggio giornaliero con la musica che non guasta e anche le notizie, diciamo così, un po' più accattivanti del solito. Partiamo con la prima canzone, ospitiamo il caro amico Dark Light, come facciamo spesso, insomma è un po' un portafortuna l'amico Dark Light. Dal suo ultimo CD ascoltiamo la traccia che conclude per l'appunto il CD Ombre sulle stelle. Questa è Saturn in Twilight, lui è Dark Light all'interno del Mangia Show. Questo è il suono del Mangia Show. Thank you. e diamo uno sguardo alla situazione libica, anche se le voci sono decisamente discordanti. La TV di Stato in mano, si può dire, a Gheddafi, la Jamaira, mi sembra si chiami così, insomma, propone delle notizie a senso unico, quindi non si sa bene che cosa stia accadendo lì giù. Invece la TV degli insorti, che trasmette via web, invece propone altre notizie. Non si riesce bene a capire le principali città tipo Sirte o Misurata siano cadute dall'una o dall'altra parte. La TV di Stato per l'appunto propone 24 ore su 24 dei filmati di propaganda pro Gheddafi, invece l'altra televisione, che è difficilmente visionabile via web perché ha tantissimi contatti, invece propone le notizie dal fronte. Chi credere delle due televisioni, insomma, non si sa, bisognerebbe essere lì per giudicare, come si suol dire. Vi ricordo che, insomma, Gheddafi sono circa 40 anni che governa questo stato, e se la cosa vi può interessare, anche lui, come principali dittatori come sono stati Mao Zedong o altri dittatori, ha scritto, diciamo così, un libro guida per la popolazione da lasciare ai posteri. Questo libro si chiama Libro Verde, dove Gheddafi annuncia, insomma, la sua opinione sui fatti dell'umanità. Lo potete trovare su internet, basta cercare Gheddafi, Libro Verde, e vi potrete, insomma, fare un'idea di ciò che pensa questo dittatore. Mi sembra che ci sia anche un sito dove raccolgono le frasi più celebri e le biografie dei principali dittatori della storia. Ora, grande musica, un po' di house che non guasta mai, è come sempre il sound di qualità di Felix JD. Sleep House. We'll be right back. grande sound propostoci da Felix JD, questa era Sleeping House all'interno del Mangia Show. Bentrovati a tutti, benvenuti da parte del Mangia, siete a bordo della trasmissione che vi porta per mano alla scoperta della musica Creative Commons, ma vi porta anche per mano alla scoperta delle principali news di carattere di cronaca, costume, spettacolo, eccetera eccetera eccetera. Per quanto concerne sempre la situazione libica, in precedenza abbiamo citato proprio il Libro Verde di Gheddafi, e vi ricordo che la TV governativa di Stato, un programma, come dicevo in precedenza, della propaganda alla grande filo Gheddafi, addirittura il giornalista non della stessa televisione ma di un'altra televisione che trasmette 24 ore su 24 news, appartenente sempre alla, insomma, allo stesso broadcasting, ha proposto un giornalista che imbracciava un fucile e invogliava, insomma, a difendere il Reis. E mi pare che anche la stessa televisione, quella che in precedenza ho citato, per l'appunto la TV di Stato, programmasse circa una settimana fa uno spot con questo giornalista con in mano il Kalashnikov che incitava proprio urlando così al Reis. Va bene, immaginate Emilio Fede con in mano il fucile che inneggia a Silvione Berlusconi. Vabbè, dai, mandiamo un salutone anche a Silvione, che su questa situazione se ne rimane sempre molto molto cauto. Intanto prende posizione anche la Chiesa, era un po', insomma, che non si facevano sentire, e anche la Chiesa finalmente cerca di partecipare a questa situazione, afferma che sta facendo tutto il possibile per sostenere il più debole, e segno di apertura e di volontà di riconciliazione tra le parti per arrivare nel più breve tempo possibile alla sospensione dell'uso delle armi. Così il Monsignor Antonio Menini, nunzio apostolico in Gran Bretagna, ha parlato per l'appunto all'ADS Kronos della Conferenza Internazionale sulla Libia. E queste sono le sue parole, insomma, si spera di arrivare il più presto possibile a un cessate il fuoco da ambe le parti per capire meglio la situazione e per vagliare un pochino il tutto, sperando, insomma, che la situazione non possa diventare sempre più, diciamo così, pericolosa in queste settimane. Speriamo, insomma, che ci sia un cessate il fuoco da tutte le parti. Ne approfitto per andare avanti ad ascoltare l'album bellissimo di Jack Erard Quintet. Quest'oggi ho scelto un'ennesima traccia, la dedico a tutti gli amici che adorano magari la musica jazz. Il brano che tra poco ascolterete è intitolato Eternal Light, a cantare Jack Erard Quintet, estratto dal suo album The Last Live, l'ultimo live di questa band. Buon divertimento a tutti con la grande musica jazz del Mangia Show. Jack era Quintet e Ten Light, abbiamo ascoltato anche questa traccia che, diciamo così, conclude l'ascolto dell'intero album di Jack era Quintet, che trovate in download free sul sito www.yamendo.com. Se vi piace insomma questo sound, lo potete scaricare gratuitamente e legalmente su yamendo.com. basta cercare Jack Error Quinted, mi sembra che sia il titolo dell'album, The Last Live, e trovate queste tracce che sono, mi sembra, 6 o 7 stupende, estratto ovviamente da un loro live che hanno fatto di recente. Vi ricordo ancora una volta tutte le nostre coordinate per interagire con la trasmissione: www.andreamangiarotti.com. questo è il mio blog, potete insomma visitarlo e porgere al sottoscritto delle domande. Vi piace o non vi piace la trasmissione, potete farcelo sapere, o semplicemente potete farci una visitina e poi cambiare sito, come si suol dire, così, una visitina veloce. Ora parliamo di reti wifi, in specifico alta velocità dei treni fino al 30 aprile sulla Francia rossa, gratis wifi Telecom. Insomma si sono sprecati, diciamo così. Ferrovie dello Stato e Telecom Italia hanno prorogato di un altro mese la promozione avviata lo scorso dicembre, che permette di connettersi gratuitamente a bordo treno. L'obiettivo, si legge in una nota, è far conoscere l'innovativo servizio e le sue potenzialità al più ampio numero possibile di clienti dell'alta velocità da Torino a Napoli. Per accedere gratuitamente al servizio Wi-Fi è sufficiente collegarsi al portale e indicare il proprio numero di cellulare per ricevere un SMS con le credenziali dell'utilizzo del servizio. Va bene, ora grande musica. No creí en tus palabras. Muchas veces lo dudé. No creí en tus palabras cuando me decías que yo era el amor de tu vida, que siempre serías fiel, que nunca me dejarías, que siempre me amarías. No importaba la distancia, pues siempre me esperarías. Era mentira, lo sabía y no hice nada por evitar que jugaras con mi vida sin piedad. No creía, pero pudo tu insistencia. Ahora me mata tu ausencia, me has dañado el corazón. Me engañaste el corazón con palabras de amor que por ya las ignoraba. Lo que tú en mí lograba vacío, como tonto te creí. Poco a poco en las redes de tu juego yo caía. No te miento, te hablo lento, ¿para qué me entiendes? No te entiendo, dime qué hice para que me mientas. Si en mi mente y en mi corazón no había nadie más que tú. No había nadie más que tú. Esta relación lo supe desde el comienzo. A simple vista se veía que sería el perdedor de tu cruel juego de amor. Estaba ciego y embrujado y no pude decirlo. ¿Cómo iba a resistirme si tu voz me cautivó? Era mentira, lo sabía y no hice nada por evitar que jugaras con mi vida sin piedad. No creía, pero pudo tu insistencia. Ahora me mata tu ausencia, me has dañado el corazón. Acabaste con mis sueños con tu juego de traición. Se me bien que te adoraba y tú de mí te burlabas. Y yo como un tonto te creía y no me daba cuenta que por otro tú morías. No te miento, te hablo lento, ¿para qué mentiras? No te entiendo, dime qué hice para que me mientas. Y en mi mente y en mi corazón no había nadie más que tú. No había nadie más que tú. Sé que fui el culpable. Che poi se riescono sempre fuori con queste, diciamo così, trovate insomma di servire i treni FS con delle linee wifi. In Italia non ci sono ancora sviluppati i wifi free, insomma come ci sono negli altri paesi e le linee casalinghe degli utenti vanno molto molto piano, diciamo così. E c'è gente anche che viaggia ancora in analogico col mitico vecchio 56, insomma, che navigano internet in queste condizioni. Il ministro Brunetta aveva, diciamo così, si era prefissato, scusate, di insomma creare una pubblica amministrazione al passo coi tempi, e anche internet insomma era coinvolta, diceva insomma metteremo la DSL in tutte le case con una velocità accettabile. Invece di andare avanti, insomma, direi andiamo indietro. Questa cosa forse poteva essere fatta, non dico di fare tantissime cose, insomma, però almeno wifi e la DSL, insomma, portarla ad una velocità decente si poteva fare e si può ancora pensare di fare. Però come capita in Italia, tutti, per usare un termine molto terra terra, fanno gli sboroni, così poi dopo, quando si arriva alla resa dei conti, c'è ben poco che è stato fatto. Insomma, io avevo aperto, ho ancora tutt'oggi una casella di posta elettronica certificata, è stata aperta in 6 mesi, cioè non è che chiedevo un paio di settimane, però insomma ci ho messo 6 mesi per avere la mia casella di posta certificata. Pensavo anche insomma che la mia posta avesse combinato dei casini, però è proprio insomma questa lentezza che è tipica insomma dell'Italia. Noi confidiamo sempre insomma che si possa anche qua nel nostro paese avere una DSL decente per poter navigare, per poter vedere dei film, vedere anche la televisione insomma, ma la vedo molto molto dura. Saremo intorno al 50° posto nel mondo come efficienza della linea DSL, e per fortuna insomma che Brunetta dice abbiamo fatto insomma una pubblica amministrazione decente, una bella pubblica amministrazione dove si comunica tutti tramite internet, no? È bello che quando va a questi programmi tipo Porta a Porta eccetera eccetera, in quello che dice ci crede, no? non è per essere fazioso di parte, però lo vedete anche voi, basta misurare la velocità della vostra DSL e insomma noterete che si va molto molto lenti, eh? Io mi ricordo 10 anni fa quando si viaggiava ancora in analogico, c'era il mitico provider Galattica e io volavo, vi giuro che con l'analogico andavo velocissimo, ed era 10 anni fa. Oggi invece, insomma, invece di andare avanti, direi andiamo indietro. Va bene cari amici, siete sempre all'ascolto del Mangia Show. Ora continua la nostra musica con un altro bel motivo, poi avremo uno stacchettino e torneremo in diretta con ancora tante curiosità. State lì. sono Beppe Grillo, sto chiamando da Genova. Volevo fare tanti complimenti al conduttore perché questo programma è veramente innovativo. Un saluto da Beppe Grillo e fate i bravi, mi raccomando. Grazie Beppe. All'ascolto del Mangia Show. Per collaborare con la trasmissione www.andreamangiarotti.com www.andreamangiarotti.com. Sei a bordo del Mangia Show. Quassù sul tetto mi sembri quasi bella, anche se in fondo non lo sei. Infatti poi se scendo ritorna tutto a posto e mi muore la poesia. Però quassù sul tetto le antenne sono croci rivolta a un altro Dio, che forse forse ci credo anch'io, che non è solo vostra questa mia città. Ikea, Osham, Decathlon, Brico, Eleua, Marlen. Possedere, avere, quante altre cose potrò ancora consumare. Però quassù mi basti, ti giuro non ti cambierei neanche se potessi, neanche se tu fossi l'ultimo dei sogni prima di andar via. Ho sete, mi odio che sete, mi verseresti ancora un sorso di petrolio per vedere se ci riusciamo a non restare a secco tra il quinto e il sesto piano. Però quassù resisto da solo asserragliato, sento tutto un po' più giusto, un po' più là del sole, che per lasciarmi vivo ogni sera è là che muore. Dovremmo, sì sì dovremmo, fare a modo nostro una rivoluzione, liberando dall'abbandono le cime delle case di tutte le città e scoperchiando il palazzo. sempre uscirà fuori da ogni nicchia di cemento, volando su, sui tetti, senza i pesi morti dei bisogni indotti. Fa freddo, un po' di freddo, la sera mi ha sorpreso nelle mie fantasie, mi sa che è meglio che scendo, che imparo a raccontarmi anch'io le mie bugie. Ma poi quassù ritorno, perché penso a quel giorno in cui saremo un po' di più, perché ci credo che in fondo dietro ogni galera c'è una scala che va su. Ma poi quassù ritorno, lo so che verrà un giorno in cui saremo un po' di più, perché ci credo che in fondo dietro ogni galera c'è una scala che va su. Ma poi quassù ritorno, lo so che verrà un giorno in cui saremo un po' di più, perché ci credo che in fondo dietro ogni galera c'è una scala che va su, quassù. Maresciallo, fate pesci. Mi hanno messo dentro alla cella con certo Bartolo De Termonzese. Mi se lo fa? A notte dormo più, sto sempre con la schiena addosso al muro così. Ma insomma, che vuoi? Tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora mi sa tanto che tu devi piangere il culo, 26. E inauguriamo questo nuovo angolo dove vi consigliamo un VHS, insomma VHS perché che è collezionista, perché come ben sapete in questi ultimi anni purtroppo il mitico VHS sta scomparendo. Comunque vi consigliamo anche un DVD magari per le vostre serate, se non sapete insomma che vedere e vi piacerebbe acquistare un DVD, oppure non so se vengono noleggiati, solitamente vengono noleggiate le ultime novità, però magari trovate anche questo. Il DVD di quest'oggi che il vostro amico Mangia vi consiglia, come avrete capito, è Delitto a Porta Romana, per la regia di Bruno Corbucci, con Bombolo, Thomas Millian, Olimpia Di Nardo, Nerina Montagnani, Leo Gavero, Aldo Ralli e con Lino Patruno. Ecco, questo DVD fa parte insomma della serie del commissario Nico Girardi, interpretato in maniera magistrale negli anni 70 e anche per una piccola parte negli anni 80 da Thomas Millian. Come ben sapete, circa qualche anno fa è stato fatto un remake insomma del commissario Girardi, Ermonnezza, però insomma io ricordo sempre con molta simpatia il vecchio commissario Girardi degli anni 70, degli anni 80. Vediamo un pochino la trama di questo DVD, Delitto a Porta Romana. Un ladruncolo chiamato Venticello, cioè Bombolo, sta razziando una casa di Milano a Porta Romana per l'appunto, quando arriva la moglie del proprietario e del suo amante. Venticello si nasconde sotto il letto, quindi già all'inizio c'è veramente da ridere, c'è Venticello sotto il letto, mentre sopra il letto c'è una gentil signora con il suo amante, insomma, che consumano un rapporto sessuale. E terminato l'atto sessuale, l'amante scende dal letto e se ne va. E Venticello intravede una cicatrice sul piede. Quando si alza per vedere la signora, si accorge che la gentil signora è morta, e qua inizia proprio questo bel film che vi consiglio sempre ovviamente in stile Thomas Millian, molto molto colorito, con battute a doppi sensi. D'altra parte Thomas Millian ha portato al successo questo personaggio di Herman Netz proprio perché era molto colorito e direi, insomma, parlava in romano. Fa molto ridere, se magari siete un po' giù di morale per una cosa o per l'altra, vi consiglio Delitto a Porta Romana con Thomas Millian e Bombolo. Se vi piace insomma il genere, non lasciatevelo scappare. Se invece siete giovani, non avete mai visto, possibile però può capitare, magari non avete mai visto un film di Thomas Millian, dei mitici polizieschi un po' comici di Thomas Millian e di Bombolo, acquistate Delitto a Porta Romana perché fa molto molto ridere. Quindi questo era l'angolo dedicato a un DVD, insomma, che vi abbiamo consigliato. Settimana prossima vedremo un po' chi è che ospiteremo. Ora andiamo avanti con la musica. Ho trovato un brano, direi, molto molto particolare. Ascoltatelo. Mi sembra un pochino minimal, però è particolare, strano ma bello. Eccolo qua. Ah no, mi sono confuso, scusate. Questo è un bel rifacimento di un brano dei primi anni 90 dei New Kids on the Block, Step by Step. Questa è la versione del titolo, vediamo un po' se trovo il titolo. Intergalactic Disco Novax. Hanno fatto un po', diciamo così, di tutto, hanno campionato il ritornello Step by Step da un brano dei New Kids on the Block dei primi anni 90 e poi insomma c'è questo giro di basso molto molto bello, insomma il brano era intitolato Intergalactic Disco, veramente un grande grande successone di Novax che trovate ovviamente sempre in download free sul portale www.yamendo.com. ricordate, Intergalactic Disco, cercatelo. Novax, che ha fatto questo grande capolavoro di musica dance, insomma campionando step by step di New Kids on the Block e mettendo su questo campione con questo giro di basso bellissimo che entra così un pochino in stile disco music anni 70. Ci piace, ci fa ballare, grande musica house all'interno del Mangia Show. Ed ora diamo uno sguardo alle principali pellicole in programmazione nei vostri film preferiti. Per questo mese trovate Street Dance in 3D, poi ancora Dylan Dog il film, è uscito anche Sotto il vestito niente, l'ultima sfilata, ve lo consiglio in modo particolare, Frozen, poi abbiamo Amici, Amanti e Vietato minore di 14, Amici miei, la rivisitazione così insomma del glorioso campione di incassi di Mario Monicelli, poi ritorna anche Il rito, Vietato minore di 14, altro film, Sucker Punch, spero sia giusta la pronuncia, nessuno mi può giudicare, Rango, questo è un film per bambini, e queste sono le pellicole principali. Comunque in uscita ci sono altri film, vediamo un po' se li trovo velocemente, dipende sempre da sala a sala, perché alcune sale li propongono, altri no, altri li tolgono come ben sapete. C'è per esempio El Cantante, Non Lasciarmi, Il Dilemma, Ruth Irish, Sorelle Mai di Marco Bellocchio, Tournée, Beyond, e vediamo un po' Le Stelle Inquiete, dipende sempre ovviamente da cinema a cinema, alcuni li tolgono, altri li ripropongono, eccetera eccetera. Beh, direi che è un periodo abbastanza bello per i film, insomma, perché ne escono tanti, insomma i cinema hanno vasta scelta di programmazione. E ora ascoltiamoci questo bel brano molto molto allegro, The Original Music from Goa, India, Viva Carnaval. Scusate, non avevo chiuso il microfono. Viva Carnaval. Viva canva. Bello, bello veramente. Scaricatelo in download free su yamendo.com. Cercate Original Music from Goa, India. Questo CD stupendo, veramente, che tocca diversi generi. Direi una composizione very very happy, dov'è che non ci sarà certo da annoiarsi, ma tutt'altro, ci sarà da ballare nelle vostre case. Siamo anche purtroppo arrivati in fondo. Era l'ultima canzone del Mangia Show. Goa, India. Viva Carnaval. Ricordatelo, potete scaricare liberamente e legalmente su www.yamendo.com. Tra poco i saluti. Avete ascoltato il Mangia Show. Informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Più che tra poco, direi immediatamente, ecco qua i saluti. Io vi ringrazio per essere rimasti sino a questo momento con il Mangia Show. Io sono il Mangia, ci ritroviamo ovviamente, a Dio piacendo, prossimamente con un'ennesima trasmissione sempre improntata sulla grande musica Creative Commons abbinata alle notizie più o meno frivole che solitamente leggiamo in presa diretta. Prima di congedarvi vi ricordo il mio blog, il mio sito dove potete interagire con il sottoscritto per comunicarci quello che volete, www.andreamangiarotti.com, il mio blog, lì potete insomma lasciare commenti, scrivermi oppure semplicemente visitare le mie pagine se siete timidi, non avete voglia di farvi ascoltare. Grazie ancora veramente per l'attenzione, è stata una puntatona del Mangia Show, tante tante belle canzoni abbiamo ascoltato, vi ricordo che in giro per il web troverete questa registrazione, la potete scaricare liberamente, ovviamente come spesso dico, diffonderla se vi va nella vostra radio, nella vostra web radio, e fare quello che volete insomma con la registrazione, ovviamente rispettando sempre le licenze della musica proposta, Creative Commons alla grande, veramente bella musica. Grazie ancora per tutto, ci ritroviamo prossimamente sempre qua per un ennesimo Mangia Show. Un abbraccio a tutti, un salutone, ciao ciao, grazie ancora veramente, ciao, grazie, grazie, grazie mille. E vuoi promuovere la tua musica? Inviaci le tue produzioni al nostro indirizzo mail con Circuito Radio Net Web. La tua musica non avrà confini. A Marescià, fate pesci? M'hanno messo dentro alla cella con certo Bartolo De Termonzese. Me se lo fa? A notte dormo più, sto sempre con la schiena addosso al muro così. Ma insomma che vuoi? Tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora mi sa tanto che tu devi andare al culo, 25.